Kids, la radio che gli MCs trasmettono per voi in ogni ora. Sei in connessione con Vine, spiga figo che fare, per voi che non capite questo stile. Radio XXX è questo mix di hits, solo hit e di rap speedrun di beat X, come il fattore ma senza la tatangio, chi giudica il migliore rapper della nazione. X come l'incognita che studia in matematica e nella metrica di un artista che spinge questa merda qua. Quale cazzo esplodono, teste si muovono per lo stile trasmesso da Vine dietro il microfono. Se mi senti in mezzo a questi MCs, io ti